Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Allora, cari ascoltatori, siamo qui, una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Sottolineo questa parola Milan non per un attacco di egocentrismo, ma perché insomma è tornato il calcio e si sa, il calcio dà anche delle piccole grandi occhio soddisfazioni. Però ancora la Sassuolo, il mancino deviazione, eh? Arriva Magnani sotto porta a fare parte della partita. Succede Alpino, di tutto a San Siro. Ricordo ancora a tutti Sassuolo, quanti con Magnani, che queste risate in sottofondo non sono da me richieste, sono mandate proditoriamente in maniera malvagia dall'Alpino in regia. È tutta una sua scelta, una sua decisione. Lui d'altronde rosso-nero nel midollo e quindi è così. Che è successo? Ma perché hai mandato quest'audio? No, intanto mi entrano degli audio con dei gol, peraltro senza pubblico in sottofondo, che non capisco. Cos'era una partita infrasettimanale di allenamento? Boh, non lo so. Comunque, signori, siamo qui con la nostra redazione, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, con l'Alpino in regia, quello che manda le risate ai gol contro l'Inter, sappiatelo cari ascoltatori, e con tante tematiche oggi da affrontare. Parleremo di diversabilità, parleremo, ebbene sì, voglio fare una grande provocazione, anche di mamme e lavoro, visto che c'è un dato molto interessante. Parleremo di scuola, la scuola in subbuglio per le decisioni del o non decisioni, qualcuno dice, il ministro Azzolin. Torneremo sulla questione dei macelli, parleremo della vicenda di Garlasco con la possibile revisione del processo. Insomma, avete capito che qui in queste due ore c'è un po' di tutto, rientrano tante tematiche, c'è perfino Leonardo Manera, quindi voglio dire, proprio più di così non possiamo fare. Vai Alpino, vai. Enthusiasm about the future. Con l'800240024 voi sapete che ci potete chiamare. Potete scriverci al 349-238-6666, messaggi, sms, whatsapp, audio, tutto. Signori, ho capito che non è un paese per scienziati, questo l'avevamo già detto, però io non so cosa dire, cioè ormai gli italiani assistono, secondo me, basiti, stupiti, anche un po' infastiditi a questa lite che c'è tra i vari scienziati, le varie posizioni sul coronavirus. Oggi il Corriere della Sera dedica due pagine a questo documento firmato da 10 esperti, alcuni dei quali sono stati anche ospiti qui, li conoscete, il professor Remuzzi, numero 1, e il professor Zangrillo, numero 2, i più citati anche in questa trasmissione, ma ci sono anche altri, Bassetti, Caruso, Gattinoni, che anche lui abbiamo sentito, ora insegna e porta avanti la sua professione in Germania, Donato Greco, Giorgio Palù. Cosa dicono? Dicono quello che da giorni ripetono ai vari microfoni, cioè che il virus è in ritirata, visto che crollano i ricoveri, aumentano i debolmente positivi, ci sono positivi che non hanno cariche virali tali da essere considerati portatori del virus, nel senso che non lo trasmettono, e ci sono gli scienziati. Oggi il professor Crisanti, intervistato dal Corriere della Sera, dice: mi cadono le braccia quando sento che gli asintomatici non diffondono il virus. Insomma, ma noi cittadini in plumi di fronte a questo argomento, ma che dobbiamo fare? Noi poveri tapini ignoranti che non abbiamo studiato, se anche coloro che hanno studiato anni, anni, decenni non sono d'accordo e litigano, noi che dobbiamo fare? La povera Elisabetta Fusconi che deve fare? A chi deve credere? Cosa fa? Fa un testa o croce? Ieri, non so in che trasmissione, adesso se me lo dite lo dico perché me lo sono perso, c'era il professor Le Foche che inizia a parlare, sentiamolo, e il professor Galli che replica, a un certo punto interviene. Vai con Le Foche versus Galli. vediamo delle sintomologie assolutamente di scarso conto, molti asintomatici, perché la carica virale è molto bassa, quindi spesso non troviamo, e anche la condizione per la quale ci sono delle persone... Il professor Galli scuote la testa con grande decisione. Ma no, abbiamo avuto tanti sintomatici fin dall'inizio, su 100 pazienti che si infettano... E poi, quindi prima, ecco, su 100 che si infettano, solo 10 vanno in ospedale, che già questa è una buona notizia, non c'era stata detta così, su 100 che si infettano, 90 non hanno niente di fatto di effetti. Vai, poi prosegue Galli, inarrestabile. Sattiamo questo mito del fatto che gli asintomatici ci sono solo ora. Ci sono stati fin dall'inizio e hanno contribuito in maniera anche decisiva all'ulteriore diffusione dell'infezione. È vero, e poi bello, è vero, ma come? Ma stavate litigando, diciamo, eravate in disaccordo fino a un minuto fa, adesso è vero, va bene. Sarà, non è un paese per scienziati. Certo, ieri è stato certificato anche la manifestazione No Vax, o anzi no, loro dicono non siamo No Vax, ma Vax Free, cioè libertà di vaccino, che vabbè, insomma, non è proprio No Vax, non è effettivamente la stessa cosa, ma a Firenze si sono scatenati. Eccolo qua, senti la signora, eh? Io non voglio fare il Guinea Pig, sa cos'è un Guinea Pig lei? Sa che cos'è? È una cavia da laboratorio. Io non voglio fare la cavia. Lei non vuole essere la cavia del laboratorio. No, ma neanche ma lei. Ma neanche io. Giustamente, ma neanche lei, neanche il giornale. Nessuno, ma nessuno è cavia da laboratorio. Cioè, ci sono i vaccini che seguono i loro percorsi, fanno gli esperimenti sulle cavie, prima animali, poi esseri umani che scelgono, poi si fanno tutti i test. Non vengono a cercarci per trasformarci in maialetti da laboratorio, cara. A un certo punto, tra l'altro, è comparso uno striscione meraviglioso in questa manifestazione. Sul sito Open hanno scritto: vi giuriamo, la foto è vera. Questo striscione recitava così: basta scienza. Ma come basta scienza? Cosa vuol dire basta scienza? A cosa dovremmo tornare? Basta scienza, cosa c'è? Gli alambicchi dell'alchimista del 1700, del 1300, non so, le pozioni di Harry Potter. Cosa vuol dire basta scienza? Ora capisco che siamo un po' sorpresi di fronte agli scienziati che litigano, ma basta scienza dove ci porterebbe? Di grazia. Insomma, qui poi dopo si scatena la vena polemica di Alessandro Milan, che vi assegna un bel premione al plurale giacchettone. Avete la faccia come il culo. Dai, su. Quando va detto, eh. Allora, non è un paese per scienziati, non è un paese per soggetti deboli. Io sono rimasto sconvolto quando ieri è uscita questa notizia della Corte Costituzionale, che ha deciso riguardo a un caso specifico, un soggetto debole. Il soggetto debole, nello specifico, leggo dal Quotidiano Nazionale, è un signore, una signora, questo non è dato a sapere, una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l'esterno. Ora, sapete quanto questa persona disabile totale al 100% prendeva dallo Stato? 285 euro e 66 centesimi. E la Corte Costituzionale, tra l'altro, la parola stessa Corte Costituzionale, si rifà alla Costituzione, rifacendosi all'articolo 38 della Costituzione, che recita: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, e gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Sulla base di questo principio sacrosanto, la Corte Costituzionale ha detto: ragazzi, 285 euro, caro Stato, non è proprio degno di rispetto di questo diritto sancito dalla Costituzione. Bisogna come minimo arrivare al principio del milione, il milione delle vecchie lire, che sono 516 euro e rotti. Io mi aspettavo questa notizia finisse su tutte le prime pagine dei giornali. Devo dire che l'ho trovata appunto sul Quotidiano Nazionale, sulla Verità, su Sole 24 Ore, non con il risalto che secondo me meriterebbe. Saluto però Gian Antonio Stella. Buongiorno Gian Antonio. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Gian Antonio Stella, ne avevamo già parlato, scrittore, editorialista del Corriere della Sera. L'ultimo suo libro è proprio dedicato alla lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia. È il sottotitolo di Diversi per Solferino Edizioni. Io mi sarei aspettato, Gian Antonio, questa notizia davvero con un rilievo enorme, perché ricordiamo i numeri, riguarda milioni di persone in Italia, stiamo parlando di milioni, non che prendono così poco, però milioni di persone che hanno diverse abilità. Beh, non che prendono così poco, no, prendono proprio così. Prendono questo. Questo è il punto. Diciamo che prendiamo i casi di Giovanni Cupidi, Alessio e Gianluca Pellegrino, che sono due fratelli. Questi ragazzi qua sono tutti di Palermo e sono incapaci anche di soffiarsi il naso, non so se è chiaro, cioè hanno bisogno totale 24 ore su 24 di qualcuno che sia lì pronto a dare una mano nel momento del bisogno. Beh, questi qua prendono allora 517 euro di accompagnamento più 285 di pensione, la cifra che dicevi prima, di pensione di invalidità totale. Allora, tanto per capirci, mettiamo di trovare qualcuno che venga a farci questo lavoro per 1000 euro al mese, al massimo lo puoi inchiodare là 12 ore se trovi uno schiavo disponibile a fare lo schiavo. Sì, ma poi io dico anche solo se uno deve fare la spesa. Cioè, ma io ieri sono andato a fare la spesa, ho preso due cose, ho speso 60 euro. Cioè già con tre spese così io mi sarei giocato quasi tutto il mensile. E questo vale per tutti. Vale per tutti, quindi vale anche per quelli che hanno la pensione di vecchiaia, piuttosto che non hanno casa propria e così via. Ma nel caso specifico dei disabili, qui lo Stato è particolarmente avaro fino a diventare proprio un taccagno della peggiore specie, diciamoci delle cose, perché se chi è un disabile totale, ripeto, neanche in grado di soffiarsi il naso, viene aiutato con questi pochi spiccioli, Come fa? E come fa? Le due sorelle Paolini di Senigallia, che sono due sorelle formidabili, sono riuscite addirittura a laurearsi, anche loro sono in condizioni simili sostanzialmente, sono riuscite addirittura a laurearsi e hanno preso due bellissime lauree, la loro storia è formidabile, ma solo grazie al fatto che i genitori per fortuna avevano la possibilità di mantenerle e di prendergli degli assistenti, uno per la mattina e uno per la sera. Sì, bisogna dire una cosa, Gian Antonio, a beneficio degli ascoltatori, questa sentenza della Corte Costituzionale non è retroattiva, quindi non è che ci sarà il ricalcolo di tutti coloro che sono in situazione, però per il futuro ovviamente varrà, cioè da questo momento in poi varrà. Quanto costerà questa allo Stato? Perché siamo brutali, dici lo Stato è taccagno, però tutto questo ovviamente costa a uno Stato che soldi non ne ha proprio da parte. Ho capito, ma lo Stato sfrutta tutti i giorni un volontariato che fra volontariato del bidello che il pomeriggio fa questo, della madre di famiglia che va ad aiutare i disabili, le associazioni, l'associazionismo, eccetera, più tutte tutte le badanti pagate dalle famiglie, più tutti gli aiuti ai parenti, che vuol dire tutto il lavoro che fa ogni mamma, ogni sorella, ogni figlio, ogni genero, ogni padre di disabili, contribuiscono con 23 miliardi l'anno. 23 miliardi sono tantissimi. Ora, è vero che col fantastilione di miliardi promesso dall'Europa, poi vediamo se arrivano davvero. E voglio vedere quanti andranno in questo settore. Quanti andranno in questo settore, appunto. No. 23 miliardi sono tantissimo. Cioè, voglio dire, le famiglie fanno già una supplenza, un'azione di supplenza formidabile. Certo. Questi sono soldi che vengono regalati tutti i giorni allo Stato. Non so se mi spiego. Ma guarda, Gianantonio, io... sono un serbatoio enorme di generosità di cui lo Stato si approfitta. E che produce anche reddito e tasse. Però guarda Gianantonio, io ho chiesto aiuto a un amico che credo conosci anche tu, mi ha detto: ma presentami come Mario, in realtà il nostro Mario Calabrese, che oggi non può essere qui con noi. Mario, so che sei buongiorno. In macchina. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti, ciao Gianantonio. Ciao Mario. Perché aveva una domanda per te Gianantonio, no, il nostro Mario Calabrese. Allora, oggi sono in macchina, sto guidando tra Milano e Torino, vi ascoltavo. Volevo chiederti questo, Gianantonio. Tu hai scritto un libro, La Casta, con Sergio Rizzo, che ha completamente cambiato la percezione degli italiani sulle caste di potere, le burocrazie, la politica, tutta una serie di comportamenti che sembravano dover essere eterni e che invece in un certo senso in parte sono stati smantellati. Anche grazie a voi, alla vostra campagna, al vostro libro. E come mai questo tema delle disabilità, delle fragilità, di chi non viene aiutato e avrebbe più bisogno, non riesce a entrare nell'agenda né dell'informazione né della politica? Perché la prima reazione davanti alla parola di troppe persone è quella di toccarsi. Cioè, è un tema che ho, per l'amor di Dio, ho già tanti problemi, non mi parlare anche dei disabili, ho per l'amor di Dio, come siamo messi, mancherebbe altro che mi angosciassi anche per i disabili, ho per l'amor di Dio, lasciami stare, per carità, non ci voglio pensare, non mi ci fa pensare. Questo è in linea di massima la prima reazione che si ha sulla disabilità. È ovvio che con un paese che preferisce non affrontare di petto i problemi, non ne vai fuori. È terribile, è terribilmente vero. Qui Mario, tu sei stato anche direttore, c'è però un ruolo, questa magari la gente comune reagisce così, ma il ruolo dell'informazione dovrebbe essere, per questo che io all'inizio ho detto, mi aspettavo questa notizia oggi in prima pagina, che scatenasse un dibattito. Faccio una provocazione, io prima ho detto faccio una provocazione sulle mamme, bisognerebbe inserire nelle nuove disabilità anche fare un figlio, perché se uno scopre che 37.000 donne hanno dovuto lasciare il posto di lavoro in questo periodo, perché sono mamme e non riescono a conciliare il lavoro. Prima le politiche sulla famiglia, ma poi forse dovremmo dire provocatoriamente: essere mamma è una disabilità. Perché è incredibile. Mario, il ruolo dell'informazione qual è in questo caso? Cioè, io a un certo punto avevo fatto tutta una campagna quando ero direttore di Repubblica sulla mobilità dei disabili, cioè fotografando per giorni e giorni. Una cosa notissima, però tutti quelli che parcheggiano sulle strisce, dove ci dovrebbero essere gli scivoli per far passare le carrozzine, sui marciapiedi senza lasciare spazio. Cioè, il mondo visto con gli occhi di chi ha una disabilità è un mondo faticosissimo, allora dovremmo imparare ad avere quell'occhio. Però in moltissimi paesi del mondo c'è, non è che gli si sta chiedendo cose eccezionali. Il punto però è che ci sono tutta una serie di punti di vista che sono meno rumorosi e meno organizzati politicamente, che non hanno valore. Tu hai iniziato la trasmissione citando il tema degli studenti, ma quello che sta succedendo anche adesso è terribile. Il governo sostanzialmente delle scuole se ne sta lavando le mani. È una cosa pazzesca. Adesso la ministra dice: ah, ma in nome dell'autonomia scolastica lasciamo che decidano i presidi. Ma questa qua è uno scaricabarile. Ma come? Tu adesso dici al preside: prendi la responsabilità, così se poi si ammala qualcuno a scuola la responsabilità è del preside e il ministero se ne è lavato le mani. Infatti oggi c'è una grande manifestazione, tra poco ne parleremo. Io però vorrei capire, Gian Antonio Stella, per concludere, è terribile, però terribilmente vera l'analisi che ci hai fatto, cioè quando si parla di questi temi la gente di reazione ha una reazione di repulsione, è terribile. Come si fa adesso a superare questa cosa? Io non so se quello che è successo col coronavirus servirà, però una cosa l'ho controllata stamattina, così ti faccio anche sorridere molto amaramente. Cioè, nel mio PowerPoint con il quale parlo del libro, mostro la fotografia, lo screenshot di Google a dicembre, cioè prima che scoppiasse il coronavirus. Sì. Se tu mettevi la parola vecchi e basta, ti veniva fuori solo l'allenatore del mio. Solo l'ex giocatore del Milan, sì, sulla schermata iniziale, solo foto dello scrittore del cacciatore e basta nella schermata iniziale, scrivendo vecchi e fine. Adesso l'ho fatto stamattina, se metti vecchi e basta, escono foto di vecchi, c'è anche vecchi. Un cacciatore, William Vecchi questa volta, che faceva il portiere, però adesso esce la parola vecchi. Fatto sta che questo coronavirus ci ha mostrato che su questo iceberg noi andiamo a sbattere di sicuro, perché secondo i dati adesso anche superati, se vuoi, persino dal coronavirus, perché il coronavirus ne ha fatti morire troppi di anziani, mm-hmm, e quindi magari i dati vanno ritoccati, però in un paese che ha il 35% delle persone superiori a una certa età, beh, in un paese come questo noi abbiamo 257.000 posti per gli anziani nei ospizi. Niente, certo. Niente. Sì, sì. Cioè, se è vero che diventeranno circa 8 milioni in più nel giro del 2028, io mi domando cosa facciamo. Costruiamo gli ospizi bene. Ogni ospizio per 100 persone costa circa 120 un miliardo e 200 mila euro. Voi capite, non ce ne abbiamo i soldi, eppure non ci pensiamo. Eh sì, non ci pensiamo, che è un po' l'atteggiamento di una certa politica. Io, una certa politica non attuale, io lo dico sempre, ma di una politica, di un modo di fare politica, che pensa all'elezione di dopodomani e non a una visione per un paese. Ringrazio Gian Antonio Stella, leggete il libro Diversi, la lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia, sul Felino Edizioni. Ringrazio Mario Calabresi, ti aspettiamo venerdì, stavolta in presenza, come dire, in presenza fissa. E visto che Mario Calabresi ha parlato di scuola, tra poco parleremo di scuola, arriva Leonardo Manera e quindi lui di scuola, ma cosa che ne sa lui di scuola? Vabbè, dai, scherzo. Parleremo di scuola con un preside per questo tema, la scuola in subbuglio, dice, siamo pronti a occupare, il ministero non si sta occupando concretamente di quello che succederà a settembre, ne parliamo tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, sei veramente bravo, è una cosa importantissima. Per me ovviamente molto, perché ho una figlia disabile, incapace di fare qualsiasi attività lavorativa, schizofrenica, con depressione, con problemi molto gravi, e prende anche lei, mi sembra, 298 euro. Galileo Galilei, che per primo ha definito cos'è la scienza, arriccerebbe il naso di fronte a questi nostri improbabili scienziati. Assegnati Milan, siamo in tantissimi che non vogliamo fare i vaccini, vogliamo essere liberi di non farlo. Rassegnati, il primo sarai tu a farlo, va bene? Ciao. Grazie, grazie. Devo dire, per parlare di una cosa seria, è il papà della ragazza schizofrenica che la sentenza, come ho detto, non è retroattiva, per cui però dal futuro sarà così. Però della serie e per la serie Che rumore è? Oggi Leonardo Manera, secondo me, è al pascolo, magari in un'Alpe svizzera. No, questo è stato aggiunto di rumore, mi sa. Stai facendo quella frusta, una torta, stai preparando la frusta. La mucca. No, lo facevo cosa per sei? Il tuo diletto, ormai questi rumori li faccio per te, perché so che ti diverti, sì. Così, quindi penso la mattina che rumore dovrò fare qui per il diletto di Alessandro Milan. E vabbè, buongiorno. Però dicelo, perché rimaniamo così. Ah, no, cucchiaio. Era il mio pentolino del latte che si era incrostato, sono riuscito a scrostarlo. E adesso faccio questi rumori con quel pentolino che è tornato in vita. Vedi che tutto può rinascere, anche il mio pentolino del latte incrostato. È incredibile. Oh. Signori, la scuola non ci sta. Oggi alle 18 c'è una grande manifestazione in varie città. Non so se il nostro maestro elementare Mauro Presini, col suo blog Like a Rolling Stone, scenderà in piazza. Chi lo sa? Chi lo sa? Mauro? Assolutamente sì, che sarò in piazza insieme, eccolo, ai genitori, agli studenti, ai colleghi e ai dirigenti che lo vorranno, assolutamente sì, mi sembra assolutamente indispensabile. Però io una cosa non l'ho capito, ho sentito questo, siamo pronti, alcune belle sigle, siamo pronti a occupare la scuola da settembre, visto che il Ministero non se ne occupa, da un altro punto di vista, siccome loro non se ne occupano, noi occupiamo, ho capito, ma così il risultato è che ancora la scuola rimarrà chiusa, o meglio gli studenti non andranno a scuola, che mi sembra una priorità. No, assolutamente, l'occupazione è intesa da subito, assolutamente, non soltanto da settembre, bisogna occupare gli spazi di partecipazione, di contributo, di idee, di progettualità, per fare in modo che la scuola riparta in presenza con tutte le sue ore a disposizione, altrimenti queste cosiddette linee guida non ci aiutano assolutamente in questo senso. Per quello che penso, guida, queste cosiddette linee guida del piano scuola sono linee che non guidano, probabilmente perché il conducente non ha una patente validissima, ma sicuramente non ha i soldi per comprarsi un'automobile da guidare, quindi sono linee guida che chiedono di essere guidate da altri. Sono le linee delega più che le linee guida, cioè le linee delega, dice fate vobis, cari presidi, cari dirigenti scolastici. Linee guida come vuoi tu. Linea guida come vuoi tu, in qualche modo. No, diciamo, il nome dell'autonomia, il Ministero dice i presidi, dirigenti scolastici, che dir si voglia, decidano e organizzino. Certo, è anche vero che ogni scuola è diversa dalle altre, proprio dal punto di vista della struttura della struttura architettonica, no? Non è che si può fare... Questo assolutamente sì, ma d'altro canto non si può nemmeno lasciare ad un'autonomia distorta la predisposizione di spezzatini che rischierebbero di essere indigesti, perché stravolgerebbero, come dire, cioè, il dettato della scuola costituzionale. Rischieremo davvero di avere delle regioni che possono spendere, delle scuole che possono spendere e delle altre no, che propongono magari un orario di un certo tipo e altre che ne propongono un altro molto più dimezzato, ma scuole che propongono materie di un certo tipo e da altre di tutt'altro livello a ribasso. Alcune, ma devo dire, anche scuole che avranno gli spazi e altre, certo, che non avranno gli spazi, cioè diventerà una fortuna, ed è sbagliato perché tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo, a maggior ragione gli studenti, ma diventerà una fortuna avere una grande scuola, magari chi ha il teatro, chi ha una palestra agibile per fare anche delle lezioni, per cui uno può sparpagliare le classi. Ma le scuole che non hanno questo? Ma le scuole che non hanno questo purtroppo si stanno muovendo in una maniera disordinata, un po' al buio, la luce di questo faro non si è accesa nei tempi utili, cioè siamo molto in ritardo. I lavori della commissione presieduta dal professor Bianchi si sono conclusi alla fine di maggio, noi siamo oramai a luglio e hanno impiegato un sacco di tempo per fare queste linee guida che appunto chiedono di essere guidate da altri. Stiamo perdendo tempo, gli enti locali hanno bisogno di tempi per predisporre degli spazi diversi. Gli enti locali, per quello che ne so, almeno nella mia città, stanno verificando gli spazi all'interno delle scuole, ma questo gli uffici tecnici lo sapevano anche prima, insomma, sono in grado di calcolare sui metri a disposizione per ogni alunno quanti alunni ci possono stare in quell'ambiente. Ma una delle critiche più forti che muovo a queste linee guida è che appunto non investono in idee, in progettualità e anche in denaro, perché per garantire una scuola in presenza completa... Sì. Quando hanno detto il plexiglass è stato tutto, io dico anche non è semplice, il plexiglass, per carità, ci volete inscatolare i ragazzi, certo. Mettetevi a un metro di distanza, ma come facciamo se non investite, cioè, nel senso in strutture, come si fa da qui a settembre a costruire una scuola nuova se ci sono aule con 30 ragazzini dentro? Non c'è secondo tempo, me assolutamente con questi limiti c'è poco tempo, ma secondo me è una questione metodologica: o si sfrutta l'emergenza per pensare ad una scuola nuova, o altrimenti ci si riduce a tamponare sempre il presente con delle risposte a ribasso. In questo momento il coinvolgimento non soltanto dei dirigenti ma anche dei genitori, degli insegnanti, degli studenti, di chi la scuola la vive, è indispensabile per pensare a delle altre soluzioni. Oltre, ripeto, ma per esempio una soluzione quale potrebbe essere? Una soluzione per ovviare, per veramente rivoluzionare, prendere spunto da questa cosa del Covid e rivoluzionare la scuola, un'idea? Ah, secondo me c'è il fatto di recuperare degli spazi alla didattica, degli altri spazi alla didattica, perché le soluzioni teatri, che sono messe... sì, certamente, ma io sto pensando anche alla mia realtà, ci sono delle tensostrutture adibite allo sport che sono di proprietà comunale, cioè, mi viene da dire di giorno, ma poi io immagino delle scuole aperte di mattina, di pomeriggio e anche di sera in certe situazioni, non certamente per i bimbi piccoli, possono essere adattate le tensostrutture, ma non so, sto pensando vicino alla mia scuola, c'è anche una chiesa che ormai è dismessa, c'è una sacrestia, qualsiasi locale posso, anche all'aperto. Perché questo non è questo non è previsto? Cioè, perché questo non rientra? Come dire, cercate, cari comuni, insieme ai dirigenti scolastici del comune, cercate delle strutture alternative valide. Ma in queste linee guida c'è scritta questa cosa, ma non c'è la forza per poterlo chiedere, perché giustamente i presidi ai comuni diranno, ho capito, insomma, se io li trovo dovrò pagare una convenzione, dovrò adattarmi rispetto a questo, dovrò pensare a un'edilizia leggera, delle tensostrutture che possono allargare anche di poco lo spazio all'interno delle scuole, e credo che sia una volontà. Io sono arrivato a pensare che se non ci fosse stata questa sfortuna, questo dramma del virus, qualcuno che aveva un'altra idea di scuola avrebbe dovuto inventarsi qualcosa del genere, perché questa sta diventando l'occasione perfida per stravolgere la scuola della Costituzione, per fare tante autonomie differenziate, non soltanto a livello regionale ma a livello locale. Noi ci aspettiamo che ci sia una disuguaglianza sociale e una dispersione scolastica mastodontica. Cioè quasi una sorta di progetto voluto, se non altro, ostacolato da parte di qualcuno. Capisco che sia complottistica questa visione, ma nella lettura questo piano, ad esempio, è pronto per affrontare un ennesimo lockdown. Se c'è il lockdown, cioè la didattica a distanza, usciranno le linee guida addirittura per valutare la didattica a distanza. Ma il piano, il progetto per partire, qual è? Cioè non può essere quello dello spezzatino di materie, l'aggregazione di certe materie in ambiti eccetera, o la riduzione dell'ora a 40 minuti. Il progetto deve essere orario intero, recuperando degli spazi, garantendo il metro a disposizione, il distanziamento sociale. Secondo me la cosa è fattibile. Certo che i tempi sono molto stretti e le risorse sono inesistenti. No, ma è chiaro, insomma, adesso facciamo una cosa, siccome devo andare al traffico. Mauro Presini, tanto oggi alle 18 credo in varie città, in varie forme, con diverse associazioni, sigle, genitori, insegnanti, dirigenti, studenti saranno in piazza, vedremo. Certo che questa è storia della scuola, ragazzi, non si rischia di creare ulteriori disuguaglianze fra gli studenti. Esatto. Ma poi soprattutto ogni anno la scuola a settembre, però in genere è in subbuglio, ogni anno è un gran classico. Quest'anno ci si mette anche la tragedia del coronavirus, sarà un mezzo disastro. Vabbè, andiamo al traffico e speriamo bene. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, è inutile che annunci la Fusconi Elisabetta e poi non la fai sentire. Io ti denuncio per sequestro di persona. E chi l'ha detto che oggi non interverrà? Magari, magari, caro ascoltatore, un pizzico di fede ci vuole nella vita, e di pazienza, chi lo sa, chi lo sa. Sorpresa, chi lo sa. Speriamo di no, però vediamo un po'. Leonardo, caro Leonardo. Allora, siamo in una situazione che potrebbe produrre uno stallo senza fine. Forse è già pronta una task force sullo stallo. Mentre qualche scienziato ci dice che il virus è diventato meno aggressivo, qualcun altro sostiene che non bisogna assolutamente abbassare la guardia e rimanere prudentissimi per vivere fino alla morte, anche di paura eventualmente. E allora intanto che facciamo? Con il lockdown abbiamo cambiato vita in poche settimane e adesso forse dobbiamo trovare il coraggio di cambiarla ancora, di tornare come prima, anche se la solita vita di sempre comunque qualche controindicazione ce l'ha. Quanti di noi vorrebbero cambiare davvero? A volte basta cambiare una piccola abitudine per innescare una serie di reazioni a catena. Per esempio, non guardo la TV, occupo quel tempo leggendo il libro Diario d'Irlanda di Eric Ball, mi appassiono all'Irlanda, vado a vivere là e poi passo il resto della mia vita in un pub, ma forse non è il cambiamento migliore. Andare a vivere all'estero è sempre il principale cambiamento di vita, in Thailandia, in Giamaica, a Cuba, in Uruguay, in Svizzera, che non ha il mare ma è tenuta bene, è pulita, è ordinata, non ci si sente mai soli perché è piena di case di appuntamenti, come si diceva una volta, ma forse non è il cambiamento migliore. Lo pensiamo tutti di cambiare vita, ma lo fanno pochissimi. Perché? Perché a quasi tutti manca il coraggio per fare il passo definitivo, per motivi economici a volte, oppure non lo facciamo perché poco alla volta cominciamo ad amare quelle cose che inizialmente detestiamo. Per esempio il bar sotto casa che fa quel caffè terribile ma dove c'è il barista col quale scambiamo due chiacchiere, il tappetino dell'ascensore col bordo rialzato che nessuno rimette a posto da anni, il freddo e la foschia invernale che mette i brividi nelle ossa ma che ti fa capire che sta per arrivare Natale, il quadro brutto che abbiamo in casa regalo di una vecchia zia, quadro che non abbiamo mai buttato, le lunghe code a sabato pomeriggio per andare a fare la spesa oppure nei magazzini del fai da te per comprare tasselli e mensole da riempire coi soprammobili che quando li capovolgi viene giù la neve, la macchina che quando parte dà sempre qualche colpo di tosse e poi si avvia nella coda del mattino. C'è un film, Le ali della libertà, che tutti abbiamo visto, ambientato in carcere, dove uno dei protagonisti, Morgan Freeman, dice che a forza di stare in carcere ci si istituzionalizza, ci si abitua a quel luogo e poi quando si viene rilasciati si ha paura di tornare liberi e allora si preferisce rimanere nel luogo che si conosce anche senza libertà, anche se è un carcere. Forse con il lockdown è stato così. Sentito il parere di alcuni virologi, può capitare di temere di tornare alla vita normale, a quella che facevamo prima. Ma qualche volta è necessario rischiare un po', come in un gioco d'azzardo, in cui però qualche carta buona ce l'abbiamo. Poi, se ci sarà la seconda ondata, ci organizzeremo. In fondo siamo già preparati, ma vale la pena, secondo me, di tornare a vivere, di prendere la macchina per arrivare fino al mare, mettersi coi piedi nell'acqua, a guardare se là in fondo si intravede un orizzonte, per immaginare magari una vita davvero nuova e più gratificante, perché in fondo la vita è cambiamento a qualsiasi latitudine, per ogni persona e a qualsiasi età. Vedi Leo, infatti oggi uno ha scritto dicendo che vorrebbe leggere questi tuoi questi tuoi interventi anche in un libro, perché li considera delle vere e proprie poesie talvolta. Un ascoltatore chiede lumi su questo, ma chi lo sa, io gliel'ho detto mille volte: Leonardo, scrivi un libro, guarda che puoi dire delle cose intelligenti. Me l'avevano anche proposto, proprio ma sei veramente 24 ore me l'hanno proposto, per pigri è un pigro, il pigro manere. Non ho ancora risposto alla mail che risale ormai un mese e mezzo fa della responsabile del Sole. Mi scuso, anzi, in diretta con lei. Pigro, pigro manera. Pigro. Pigro manera. Risponderò tra tre mesi e mezzo fa. Va bene, a proposito di coronavirus, eccetera, c'è questa diatriba che sapete che ci portiamo sempre da dentro e da dietro e da tanto, soprattutto per quel che mi riguarda. Ci sono delle persone che reputano che io ce l'abbia con gli anziani, cosa non vera, falsa. Ma insomma, ma falsissima. Io ho visto il tuo zerbino di casa. Ecco. Sì. C'è scritto vietato l'ingresso agli anziani, anzi ai vecchi. Smettila. Dottor Mila, è lei che non abbraccia, mi sembra, i pensionati, quei poveracci che hanno lavorato una vita. Questo è un audio che mi inchioda di un'ascoltatrice che sbaglia. Però c'è un sondaggio di Censis Tender Capital, ne pubblica oggi dei resoconti Libero, secondo il quale i giovani ora sono arrabbiati con le generazioni avanzate. Cioè un giovane su due dice basta spendere per salvare gli anziani, un trentenne su due vorrebbe la precedenza. Gli intervistati tra i 18 e i 34 anni chiedono priorità all'accesso delle cure, basta dare priorità agli anziani. Quindi vedete, non sono io, secondo questo osservatorio Censis Tender Capital, il 49,3% dei giovani tra i 18 e i 34 anni ritiene opportuno dare la priorità agli under 60 quando sono malati e non agli anziani che, come dire, la loro vita l'hanno già fatta. Oh, ma che voi ve la prendete con me? Vedete che c'è questo scontro generazionale, mica male. Comunque, nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000 parleremo anche d'altro, il caso Garlasco, torneremo sulla questione dei macelli tedeschi e italiani. State con noi, Giornale Radio. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma ditela la verità, che queste cose a Manera le scrive Elisabetta Fusconi. Anche a me manca la voce di Elisabetta, magari anche registrata, grazie. Una rivolta. È una rivolta, Leonardo. Non... No, beh, oggi dovresti però, ascoltare. Ma tu visto, non vuoi visto, perché... Ma la teniamo un po' in cantina, come si suol dire. No, però c'è un'autrice, vogliamo salutarla, Leo, perché sennò tutte le volte... Che collabora per i personaggi. Per i personaggi. Collabora con me, invece i monologhi li scrivo sempre io. E si chiama Marianne... Sono più divertenti, dici, certo. Sì, certo. Ti ringrazio. Prego. Sei sempre molto gentile. Salutiamola bene. Marianna Stefanucci. Grazie, Marianna. Cioè, mentre invece i monologhi, che rappresentano monologhi, la parte più vera di me, anche diciamo, quelli li scrivo sempre io. Quelli da tre anni, circa 3, 6, 9, circa un migliaio in tre anni. Ecco. Mille amarezze. Mille pillole di amarezza. Va bene, è bello. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao. Proprio nel 2021. Allora, adesso voglio parlare di questo. Cioè, ieri ho letto sulla stampa una ricostruzione molto bella, molto appassionata del caso, del delitto di Garlasco. Ricordate l'uccisione di Chiara Poggi, per questo Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere in via definitiva, ma i nuovi avvocati chiedono la revisione della sentenza. La mamma di Chiara ha detto per me il colpevole è quello che è in carcere, quindi Alberto Stasi. La cosa interessante, che è il punto di vista anche del pezzo che leggevo sulla stampa, è: ma perché non crediamo mai, abbiamo sempre dei dubbi anche di fronte a una sentenza di colpevolezza decisa in via definitiva? Ma ha scritto tutto in maniera più puntuale Gianluigi Nuzzi, che se ne occupa, conduttore di Quarto Grado, scrittore. Gianluigi, buongiorno e grazie di buongiorno essere qui. Buongiorno a voi, eccoci qua, ciao. certo. Allora, noi c'è un certo punto, come nel caso anche di Rosa e Olindo, in cui non ci rassegniamo a dire quella è la verità giudiziaria. Perché secondo te nasce sempre questa incertezza a un certo punto? Ma secondo me è il classico cortocircuito italiano. Da una parte abbiamo una giustizia spesso contraddittoria, con sentenze che ribaltano quelle precedenti pronunciate, no? Precedentemente pronunciate. Quindi abbiamo, come in Stasi, abbiamo due assoluzioni, una condanna, così Antonio Logli, l'assassino della moglie di Roberta Ragusa, così anche altre vicende. Quindi da una parte c'è il libero convincimento del giudice in processi magari che sono iniziari, dove non c'è la pistola fumante, e quindi il dubbio rimane insito. Dall'altra parte c'è una progressiva, come dire, frantumazione di quelle che sono, di quella che è la credibilità di tutti i punti di riferimento di una società contemporanea. Resistono, tengono un po' le forze dell'ordine, il Presidente della Repubblica, però per esempio noi giornalisti abbiamo visto la nostra credibilità precipitare negli ultimi vent'anni. Insomma, una volta i giornalisti erano dei grandi inviati e quant'altro. Quindi ci sono tanti fattori che si uniscono. Dall'altra parte c'è un tentativo di dare una spallata a delle sentenze, dimenticando che la revisione del processo si può chiedere solo per motivi eccezionali, perché sennò avremo una giustizia infinita che già è intasata. Già è lunga esatto. La nostra, figurarsi. Quindi, così. Però da quarto grado lo vediamo, insomma, quello è un punto d'osservazione privilegiato, vediamo come spesso questi imputati, questi condannati, questi assassini, perché poi uno quando è condannato definitivamente, cioè con tutte i garantismi che vogliamo, però insomma uno se assassino è assassino. E quindi anche tutti si... Poi c'è un altro aspetto. Per carità, legittimo, cioè un avvocato, soprattutto gli avvocati nuovi, possono appellarsi a diritto e fanno tutte le richieste del caso. Noi abbiamo una giustizia. Tu mi sembravi molto perplesso però ieri nell'intervento sulla stampa, senza riepilogare tutto il caso, cioè proprio perplesso sul fatto in sé. Sì, ho le mie perplessità perché nel caso specifico c'è già stato una richiesta di revisione che ha visto indicare su tutti i giornali italiani un assassino alternativo ad Alberto Stasi, che aveva commesso il delitto tremendo di abitare a 400 metri da casa di Chiara Poggi. E l'altro delitto tremendo che aveva commesso è che, visto com'era la situazione, si era conservato per qualche anno in un cellofan, nello scontrino del parcheggio dove mise l'auto il giorno dell'omicidio di Chiara. Lo ha reso sospetto, perché uno dovrebbe tenere uno scontrino nel giorno dell'omicidio? Voglio dire, adesso non entro nei dettagli, però insomma, prima di mettere alla forca il nuovo indagato, il nuovo presunto colpevole, mentre c'è già il colpevole certificato, io userei un po' di cautela. Dall'altra parte c'è anche un elemento psicologico, nel senso che io vedo come alcuni di questi condannati, proprio nelle relazioni interfamiliari con i parenti, insistono molto sull'innocenza, perché è meglio avere il dubbio di qualcuno che la condanna di tutti, e quindi invece ammettere la colpevolezza vorrebbe dire rompere magari dei legami familiari, no? Penso Bossetti, che ha ucciso Chiara Gambirasio. Se lui ammettesse alla moglie e ai figli di essere questo assassino, non quel muratore dagli occhi azzurri, gran lavoratore che l'immaginario collettivo vede nel manovale bergamasco, questo sicuramente andrebbe a deflagrare e a interrompere le relazioni. Cioè, c'è un tentativo di dire, almeno pur in carcere mantengo questa parvenza di rispetto alle poche persone che ho intorno. Ci sono degli errori, non è chiaro. Poi è ovvio che un processo in sé lascia delle aperture, dei dubbi, perché non è una geometria, non è matematica, non è algebra il processo. Il processo si basa su fatti parziali, su pezzi di un mosaico, e mai ci sono tutti i frammenti, no? Perché sennò avremo un processo perfetto. Però è meglio dire alla moglie: guarda, è un errore giudiziario che sì, ho ucciso una ragazzina in un bosco, d'inverno, certo, di 13 anni. Cioè, insomma. Che succederà adesso, cioè, secondo te? succederà? No, ma io sono, allora, hai fatto bene Alessandro a dirlo, cioè gli avvocati devono fare il loro mestiere, ci sono degli elementi nuovi, per carità, ecco, con ovviamente tutte la libertà di avere qualche perplessità. Qualche adesso dubbio, la Corte d'Appello di Brescia ha ricevuto il documento, questa memoria, sono 22 pagine con qualche centinaio di documenti allegati, l'assegnerà dei giudici, questi giudici chiederanno il parere della procura e valuteranno se è ammissibile, che è il primo grado. Ecco, perché c'è un altro, cioè, se fosse ammissibile, gli avvocati, questa è una cosa che magari i nostri ascoltatori non sanno, gli avvocati potrebbero chiedere una scarcerazione dell'imputato, del detenuto, perché l'ammissibilità già è un criterio di dire, è ammissibile, cioè dobbiamo ragionarci, mentre il 99% vengono dichiarati inammissibili. A parere di Nuzzi, queste vicende, per come vengono trattate sui mass media, possono avere un condizionamento a livello giudiziario? Assolutamente sì. Sarebbe, come dire, i processi non avvengono in delle bolle tolte, isolate dal mondo. Infatti ci sono degli imputati che cercano di usare i mezzi di comunicazione, insomma. E questo è la storia della gallina e delle uova, bisogna capire chi è nato per primo, c'è una storia vecchia come il mondo. Eh sì, allora, Gianluigi, noi ci fermiamo, intanto ti ringraziamo molto, Gianluigi Nuzzi. Faccio una provocazione, sì, se posso, Alessandro. Allora, il Ministero della Giustizia per molto tempo non faceva intervistare a noi giornalisti i detenuti se non nelle condizioni in cui il detenuto aveva avviato un processo di ammissione della colpa, di reinserimento sociale, e questo è ovvio. Oggi questa cosa è cambiata, cioè noi abbiamo dei detenuti che vengono intervistati e che dicono: signore, guardate che la giustizia si è sbagliata, io sono innocente. Allora, io Nuzzi, quarto grado, l'intervista del detenuto la faccio perché è una notizia. Sì, certo. Poi dopo escono anche messaggi come quello dell'ascoltatore Gianluigi, che ci dice, ci scrive: Bossetti non ha mai ucciso nessuno, e lo dice la sentenza. E non lo so, Gianluigi, se questo ascoltatore è così informato sulla vicenda, però insomma uno magari poi vede, legge e si fa un'idea, che per carità è legittimo, però forse uno, io ad esempio non mi spingerei a dire niente di questo, perché non ho mai letto un atto giudiziario al riguardo, non sono mai stato neanche a seguire una udienza di quel processo. Gianluigi, ci dobbiamo fermare, ti ringraziamo molto, Gianluigi Nuzzi, grazie per essere stato qui, lo potete leggere anche sulla Stampa, ogni tanto racconta questi delitti, questi casi di cronaca, oltre ovviamente a conoscerlo come conduttore di quarto grado, i suoi tanti libri. Il traffico, poi torniamo sul tema dei macelli che ieri su cui ieri siamo concentrati sulla Germania, per capire cosa succede in Italia. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, signori, sono le 10:21 minuti. Ieri, ricordate, abbiamo parlato dei macelli in Germania. C'era una Carla Rocchi scatenata a dire: ah, le condizioni sono terribili. Allora noi giustamente siamo qui a parlarne con chi se ne occupa da tempo. Saluto il direttore dell'Associazione Industriale delle Carni e dei Salumi, Davide Calderone. Buongiorno, Calderone. Grazie. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, perché chiaramente quello che succede in Germania, la vicenda dell'imprenditore Tönnies, che è anche un proprietario di una squadra di calcio, lo Schalke 04, una persona molto importante, ha gettato nello scompiglio. Intanto il settore, quando parliamo del settore, lei è direttore di Assica, di che settore parliamo? Ci dia due numeri per capire, per inquadrarlo. Ma guardi, io sono il direttore di Assica. Assica è l'Associazione Industriale delle Carni e dei Salumi, noi rappresentiamo tutta l'industria di macellazione delle carni suine e poi tutta l'industria di trasformazione, quindi dei salumi, i prodotti a base di carne, i nostri famosi salumi. Noi occupiamo circa 30.000 addetti, abbiamo 180 aziende associate per un fatturato annuale di circa 8 miliardi di euro, del quale 1,5 miliardi di euro è destinato all'esportazione nei principali paesi, sia comunitari che paesi terzi. No, questi numeri per capire, per inquadrare il settore. Ora, che rassicurazioni ci sono? Devo dire che ieri ci ha chiamato per esempio un ascoltatore dicendo: io lavoro da 40 anni in un macello, chiamiamolo così, e dicendo: ci sono i veterinari, ci sono le rassicurazioni. Che rassicurazioni si possono dare per i lavoratori le condizioni sono assolutamente normali, è un lavoro come gli altri, con le norme di sicurezza per i lavoratori stessi. Non dimentichiamoci mai che le aziende di macellazione sono sotto costante controllo veterinario, è l'unico caso nelle aziende alimentari dove il veterinario, ben inteso pubblico, quindi un dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, deve essere presente costantemente, quindi non si può macellare un animale se non alla presenza di uno o più veterinari pubblici che devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza alimentare della produzione di carne, quindi questo è un aspetto fondamentale. Tanto per fare un esempio, nelle nostre aziende di macellazione, che per quanto riguarda i suini, la maggior parte si trovano proprio nelle zone che purtroppo sono state più colpite da questa pandemia, mi riferisco a tutta la zona della pianura padana, le province di Parma, di Cremona, di Mantova, ecco, in quelle aziende i casi sono stati pochissimi e tutti gestiti, sì. Ma pochissimi, dico, si contano sulle dita di una mano. Ma cosa è successo secondo lei? Adesso poi non siamo, come dire, in Germania, ma cosa può essere successo? Perché lì in Germania c'è una grande polemica. Guardi, su come voi immagino, ho letto gli articoli, ho cercato di approfondire un po' le questioni. Come sembra apparire, la questione non è legata alle condizioni di sicurezza durante la lavorazione, perché non dimentichiamoci che in industria alimentare, come il macello in particolare, c'è una preoccupazione principale, che è la sicurezza appunto alimentare, e le caratteristiche di igiene degli ambienti di lavorazione sono fondamentali, così come i lavoratori sono sempre protetti. Quando è successa la pandemia e le industrie alimentari hanno potuto, giustamente considerate essenziali, continuare la lavorazione, per le industrie alimentari è stato relativamente semplice adeguarsi ai protocolli che sono stati via via preparati dal governo insieme alle parti sociali. Sì. E semplicemente i lavoratori sono già protetti, è stato sufficiente inserire l'utilizzo di mascherine dove non era possibile mantenere il distanziamento di oltre un metro, e le aziende hanno lavorato in maniera assolutamente corretta e precisa. E questo, a dimostrazione di questo, non ci sono stati focolai e le aziende hanno lavorato febbraio, marzo, aprile. Il discorso qual è, secondo me, e da quello che anche leggo evidentemente, è qualcosa di legato nelle condizioni extra azienda di lavorazione. Sì, quindi infatti si raccontano di lavoratori che vengono dai paesi dell'est, vengono messi, ci spiegava ieri un collaboratore da Berlino, vengono messi anche in condizioni di vita un po' precarie, magari ammassati nelle case, e gli dice questo. Probabilmente leggendo questo, probabilmente si tratta di un mancato rispetto alle norme di distanziamento che tutti ormai conosciamo benissimo, legate non tanto all'ambiente di lavoro quanto all'ambiente extra lavoro, e questo purtroppo non è controllabile, evidentemente, dico io, da parte di un'azienda. L'ascoltatore che è intervenuto ieri ha perfettamente ragione, non è vero che l'azienda di macellazione è un'azienda infernale, no, è un ambiente di lavoro sicuramente con le sue particolarità, ma un ambiente di lavoro gestito. È un punto su cui tenevo ovviamente Carla Rocchi, ma perché lei, essendo presidente dell'Internazionale Protezione Animali e vegetariana, ha chiaramente un'avversione proprio come principio etico, se vogliamo, contro il consumo della carne, e quindi diceva nessuno va a lavorare in un macello se non è obbligato, cioè, come dire, l'ultima opzione. Questo mi sento proprio di dissentire, nel senso, è assolutamente un lavoro come un altro, ci sono tanti tipi di aziende, l'azienda di macellazione è una, ci sono aziende che abbiamo molti esempi di aziende moderne, ben gestite, dove ci sono i lavoratori che sono tranquillissimi di andare a lavorare, l'hanno sempre fatto, noi abbiamo anche ringraziato i lavoratori che anche poco durante la pandemia, nei momenti più allarmanti, non si sono mai tirati indietro, hanno garantito la presenza per produrre alimenti sani, sicuri come sono. Dicevo all'inizio, io stesso sono un veterinario, quindi conosco queste norme in maniera approfondita. In maniera approfondita è così, cioè è proprio, ma questo storicamente nelle aziende di macellazione, essendo appunto un ambiente delicato, chiaramente, perché si produce alimento a partire da un animale vivo, è chiaro che le norme di sicurezza alimentare, di catena del freddo, di rispetto di normative igieniche è ai massimi livelli. Le dico solo un esempio, i regolamenti europei sulla sicurezza alimentare hanno dei capitoli specifici per le carni, proprio perché c'è maggiore attenzione. Questo da sempre, storicamente, è così in Europa e in tutto il mondo. Va bene, noi la ringraziamo, Davide Calderone, ripeto, il direttore dell'Assica, Associazione Industriale delle Carni e dei Salumi. C'è da dire, proprio in questo momento arriva notizia dall'ANSA, altra notizia non magari favorevole a Carla Rocchi. È stato firmato da Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento. Caro Leonardo, ricordi la vecchia questione, gli orsi, l'atto per l'abbattimento dell'orso che M39. Ha attaccato... No, era questo quello. È quello nuovo. No, questo è quello nuovo, quello che ha attaccato i due... M39 è stato catturato. No, è stato catturato, è stato preso, adesso non lo so, adesso penso stia in un luogo... Dove si trova, un luogo recintato, ma adesso non lo so, non è che posso fare la cronaca. Era in un luogo recintato. Sfida Lucchetti, dove si trova? Sfida Lucchetti, dove si trova ora? Sappiamo che M39. Era stato preso ed era stato... Leonardo neanche si ricordava che fosse stato preso, insomma. Lui memoria da tartaruga, no, memoria da pesciolino rosso, memoria da Dori. Hai qualche altro complimento oggi da farmi? Prego. Pigro, memoria da tartaruga. Ti chiedo sempre come fai ad andare sul palcoscenico con questa memoria da Dori. Non ti ricordavi ieri di aver detto di mangiare le cipolle alle 9:10? Non te lo ricordavi alle 9:20? Come fai a fare uno spettacolo in cui devi recitare? E la memoria è fondamentale. Io sono che devo stupito. Fare lo spettacolo nuovo. Ora che dovrò fare lo spettacolo nuovo, no, dico, il problema per me è sempre memorizzare, quindi andrò in giro per strada a ripetere, non lo faccio a casa perché mi annoio a farlo a casa e ripeto per quindi strada. Se vedete Leonardo Manera parlare per strada, non chiamate il 118, non cercate di convincere un sindaco a fare un TSO, semplicemente sta ripetendo. Lui entra nei negozi e il commesso lo guarda, gli chiede una cosa, lui dice altre cose, ma sta ripetendo semplicemente. Ognuno ripete dove vuole. Spettacolo. Sono libero di ripetere dove voglio. Sì. Ecco. Noi siamo liberi di scambiarti per matto, però, scusa, o di guardarti un po' strano, perché poi si estranea con degli occhi a palla. E si vede che lui in quel momento sta vedendo di fronte a sé il pubblico e si trova sul palcoscenico e ripete, ma tu vedi uno con degli occhi a palla che dice delle parole sconclusionate che non hanno senso nel contesto in cui è calato e dici datemi un cellulare per chiamare il 118. Vabbè, invece è tutto. Ti ringrazio, sei sempre... No, in realtà è un complimento, è una salvezza che ti do. Comunque, c'è una sfida, Lucchetti, bando alle ciance, in corso. A tempo perfino tutto il tempo della borsa per dirci dove cavolo sia l'orso M39, che non è quello che ora Fugatti ha detto di abbattere, questo è un altro. Andiamo. Come si chiama questo? Ha un nome questo orso? Ma che cavolo ne so! Allora, sfida Lucchetti, come si chiama l'orso dell'abbattimento in questione? Okay. Doppia sfida. Oggi a Miriam Lucchetti tocca lavorare davvero. Sei un macigno. Comunque era M49, dice subito sfida Lucchetti, non M39, M49 era, non 39. Ti sei perso 10 punti d'orso. Dai, va, andiamo alla borsa, su. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, è inutile che annunci la Fusconi Elisabetta e poi non la fai sentire. Io ti denuncio per sequestro di persona. Mannaggia, ragazzi. Mamma mia, ma chi è? Ma chi è? Oh! Ecco qua. Cucù! Eccoci. Sono qui. Grazie a questo ascoltatore. Parla al tuo spettacolare pubblico. Ma numeroso. Io li ringrazio dal profondo del cuore, anche perché mi danno finalmente modo per introdurre un tariffario. Da tempo che ci pensavo, ho deciso che da oggi pretendo 20 franchi al minuto per presenza. 20 paga che saliranno, Maniera. Sì, no, tra l'altro intendo spennare unicamente te e Manera, ovviamente, niente a carico di ascoltatori o della radio. E ecco. 20 che saliranno a 25 in caso di cazziatone, bacchettamento, quelli di cui avete sostanzialmente bisogno. Mi va bene? Benissimo. Leonardo, io non so quanti sono 20 franchi, a quanto corrisponde 20 euro? 20 euro. Sono stata onesta, è un prezzo popolare, veramente. Più o meno, mi rendo conto che la situazione è difficile. Sì, sono un po' meno di 20 euro. Diciamo meno, che sì. No, ho deciso che tutto questo distanziamento deve finire presto, perché è noto del lassismo eccessivo in voi, sta diventando ingestibile. Secondo me è vero. 20 franchi a minuto. Sì. Ci stiamo avvicinando ormai alla pausa estiva. Secondo me si perché avverte questo. Manera. Io sono sempre affetto no, dall'assismo. Però noto del peggioramento, Leo, in te. Te che mi parli con le insalate marce in frigo, l'altro che non esce di casa da mesi, è oltre ma la sindrome della ma capanna. E secondo me, biondo Lino Milan, caro, secondo me tu sotto sei in pigiama e sei, ti vesti solo nella parte sopra, quella del busto, da quando appari in video. Io ho questa al teoria. Al limite in pantaloncini, ma fa caldo. Non so, non voglio approfondire, però noto del lassismo in voi, ecco. Bisogna tornare. Ai cazziatoni. Siamo a fine stagione, è vero. Sì. Però manderei Leonardo, le repliche ricordo, già da domani. Mandiamo le repliche, ti ricordo, il meglio di. Tu sei abituato alla TV, ma ti ricordo, caro Leonardo, che a luglio dovremo lavorare molto di più a luglio, per mettere a punto tutto l'agosto, perché non è che possiamo lasciare gli ascoltatori. Quindi sei pronto ad un mese di intenso lavoro? Ad agosto non va il meglio di sempre quelle cose, risentiamoli, riascoltiamoli. Ti piacerebbe, Leo? Già, no, munisciti di magnesio, perché devi venire a lavorare. Soprattutto vi dovete presentare qua in radio, anche perché c'è una casella della posta che non contiene più la posta, non so come dire, posta, a voi indirizzare. Libri, ma vogliamo essere utili? Posso dare una notizia che riguarda la Confederazione Elvetica? No, ci tengo perché insomma è un bel esempio di democrazia. Sappiate che da oggi in Svizzera sostanzialmente la Confederazione assumerà integralmente le spese per i test diagnostici per il Covid, sia i tamponi sia i test sierologici. Insomma, tutti potranno fare questi test a spese della Confederazione. Perché tu sei a spese dello Stato italiano? Facci capire, perché non vai in Svizzera? Sì, ma lo Stato italiano non paga il test sierologico, perché? Almeno ma vai per in Svizzera, ora... una di meno da pagare. Vai in Svizzera, sempre sti rosiconi. Io porto questi esempi proprio da emulare e vengo. Ma no, ma sì, ma è anche bello guardare cosa succede oltre frontiera. Niente, siamo sempre chiusi in questo provincialismo italiano. Ma infatti noi guardiamo oltre frontiera, facciamo solo un salto e dall'Italia passiamo alla Germania. Gli fate cucù, ok, va bene. Cioè facciamo un grande zoom. Comunque, bisogna un po' sfatare. Sì. Bisogna un po' sfatare tutte queste presunte virtù. Queste presunte virtù della Svizzera. Io avrei un episodio in merito per sfatare un po' le virtù degli svizzeri. Sì, ti prego, Leo. Andai molti anni fa a lavorare in un night di Lugano che si chiamava L'Ora X di Lugano. Era un night, eravamo diversi comici e la paga prevista per ognuno era di 80 franchi sicuramente, 80 franchi, poco. Ognuno di noi prese i suoi 80 franchi. Poi l'organizzatore svizzero ci disse: dai su, andiamo a mangiare qualcosa tutti insieme in un locale qui vicino. Siamo andati e qualsiasi cosa noi prendessimo, io ho preso una focaccina e una birra, il costo era di 80 euro. Quindi quello che avevamo avuto come cachet, poi lo abbiamo ridato. E l'organizzatore è uno svizzero. Infatti stavo chiedendoti se l'organizzatore non era un italiano emigrato in Svizzera, perché 80 franchi veramente non li guadagna neanche, non so, uno studente che sta per fare un lavoro estivo, quei cosiddetti lavoretti. Allora, cioè, mi sembra un po' strano. Quindi vabbè. Tu 20 franchi a minuto, vabbè, sei stata abbastanza ligia. Vabbè, vai a lavorare, torna a lavorare. Vabbè, è stato bello anche oggi. Elisabetta Fusconi. Ricordo che la sfida Lucchetti ci dice che l'orso M49 si trova nell'area faunistica di Casteller ed era là, quindi è rimasto là. Il recinto di contenimento è sempre là. Come si chiama però l'orso attuale, la sfida Lucchetti è perduta. Neanche perduta, una sconfitta totale, perché non ci ha detto come si chiama l'orso dell'abbattimento attuale. È diventata pigra anche Miriam Lucchetti. Non lo so, qualsiasi quando cosa. Quando l'ho conosciuta, Miriam era molto più attiva, adesso anche lei si è lasciata andare. Tecnica Lucchetti, veramente improduttiva. Ma io vorrei sapere invece, ma ce l'abbiamo? Possiamo chiamare il buon Belot, che ieri per un attimo ho sognato la vittoria della Lazio, giusto per sperare nello scudetto della Lazio e non nello scudetto della Juve come degli ultimi 45 anni, e quindi ho sognato sul 2-0 per la Lazio contro l'Atalanta a Bergamo, e poi invece l'Atalanta ha fatto l'ennesima impresa. Ma io vorrei sapere se ce l'abbiamo Belot, se possiamo chiamarlo, riusciamo a fargli uno squillo giusto di un minuto per mandarla a quel paese. Ho dato il numero all'Alpino da 3 minuti, ma l'Alpino non controlla i WhatsApp. Si può, dai, facciamo uno squilla a Belotti al volo, dai, fammi squillare il numero, tu fai il numero, se vuoi te l'ho detto, così tutta l'Italia saprà il numero di Daniele Belotti, che è 335, no, mi fermo così. Pronto? Buongiorno. Ol Belot, che ho chiamato Belot per insultarti. Siamo in una fase di esuberanza ormonale. Ma dove sei? Gigantesca, alla camera, cosa strana. Non chiedetemi cosa sto votando, però, perché non lo so. Quindi non esageriamo nelle domande. Va bene. È già tanto che sei lì sui banchi a scaldare i banchi. Esatto. Sì. Sì, i miei colleghi mi guardano male, i laziali mi vogliono buttare fuori. Quindi, sì, e infatti sognavo la vittoria della Lazio per non dare lo scudetto alla Juve, ma l'Atalanta è sempre a rompere le scatole, questo devo dire. Vi toccherà fare delle trasmissioni speciali ad agosto al seguito dell'avventura fantastica che farà l'Atalanta in quel di Lisbona. Ma quello spero che la vinciate la Champions League, sarebbe il sogno. Sarebbe il sogno. Promessa a tutti gli ascoltatori del tuo programma. Capito Leonardo, speciali. Non si va in ferie, si fa la diretta per la Champions League in agosto. Da Lisbona, quindi lento, fede maniera, gli toccherà andare anziché sulle rive del Garda, sì. Dove andrà a Lisbona. A Lisbona. No, neanche starei qua a Milano a fare la diretta, a Lisbona ci sarà Ol Belot. Daniele Belotti, ricordiamo, leghista. Quindi cosa si sta votando adesso, Daniele? Boh, chi lo sa. Ma non lo so, ma che domande fai? Cosa te ne frega di cosa si sta votando? Si vota e basta. Si vota. Sì. Pensa quindi che funziona hanno... così, con il capogruppo che ti dice: Ol Belot, questo vota sì, pollice questo su, vota pollice no. Giù, tu, si fa così. E tu esegui. Di la verità, è così, funziona così. Adesso arriveranno gli ascoltatori scandalizzati che manderanno. Certo, giustamente che insultano me perché do voce a un fancazzista come te. Ma sai che quando io studiavo diritto più inutile della Repubblica della storia. Esatto, della ovvio, si sa. Io ricordo che quando studiavo diritto costituzionale, il nostro professore, una delle prime cose che ci disse è che in Parlamento c'erano i capogruppo che facevano pollice su, pollice giù, e i peones li definiva lui e votavano in base alle indicazioni del pollice del capogruppo. Pensa che questa tradizione si è tramandata dalla prima Repubblica alla terza, quindi ancora oggi nell'era tecnologica vige il pollice alto passo. Guarda vedi che arrivano i primi messaggi. Non cito la fonte, è un'aberrazione, gli diamo 12.000 euro al mese e ride ragazzi, ride lui dei vostri 12.000 euro al mese, ride lui Ol Belot, ride. Io ecco, resisto con il 95% di presenza parlamentare. Sì, nonostante ciò, ecco. Va bene, Ol Belot, dai, ti volevamo salutare e insultare io per il 3-2 dell'Atalanta. Confidavo nella vittoria della Lazio, porca miseria. Anche quest'anno lo scudetto da Juve, porca cera. Ciao Ol Belot, andiamo al traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus-free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, signori, è venuto a trovarci il nostro ex imprenditore, riciclato in mago, il mago più amato dai bambini, insomma, dalle mamme dei bambini. Il mago Neronello. Il clown Neronello, ha ragione, l'amico dei bambini. Ha ragione. Yup, ho detto mago? È lei che ha dei gravi problemi di memoria. Questo perché è un po' mago lei anche. Minato nella memoria in modo irrimediabile. Sembro allora mero, i centri estivi cominciano a riaprire, ma bisogna ancora evitare gli assembramenti di mocciosi, di bambocci. Quindi io per il momento continuo a fare clown in smart working. Il clown Neronello, l'amico dei bambini, yup, appaio sullo schermo dei computer dei bimbi, lancio dei coriandoli, faccio subito un indovinello per farli divertire. Per esempio, bambini, perché un lama lascia la fidanzata? Perché non l'ama? Una battuta bella. Molto. Appena detto questa bella battuta, uno di loro mi ha minacciato con delle forbici da giardinaggio. Allora gli ho detto, bambino, vuoi fare una cosa davvero divertente? Prendi la graffettatrice di papà e prova a vedere se riesci a unirti le dita dai piedi. Stava per succedere l'irreparabile quando è arrivata la madre. Mi ha detto, clown Neronello, lascia stare i bambini, prendi me, clown Neronello. Abbiamo iniziato a scambiarci messaggi bollenti per un po', ma stava ormai scadendo il mio tempo, allora l'ho salutata e ho raccontato ai bimbi una delle mie favole, le favole del clown Neronello. C'era una volta un regno baciato dal sole, dove gli animali giravano in libertà e i sudditi erano felici. Lo guidava un sovrano buono e generoso, Re Canederlo, che si prodigava per mantenere la quiete in ogni strada e in ogni casa. Un giorno giunse alla corte di Re Canederlo un misterioso indovino, Fonzio, e Re Canederlo decise di interrogarlo sul futuro del suo regno. L'indovino tirò fuori la sua sfera, la strofinò e fece un balzo indietro. Tuoni e fulmini annunciavano che terribili sciagure stavano per abbattersi sulla comunità. Il re, sconvolto, convocò con urgenza il suo fedele consigliere, Ortodonzio, per dare l'annuncio a tutti gli abitanti del regno. Ortodonzio non perse tempo, uscì immediatamente sul balcone reale, prese il megafono e disse: «Raga, qua si mette male, mettete 4 stracci in una borsa e lasciate subito il regno!» Ortodonzio era così soprannominato a causa della sua dentatura complessa. Dopo un attimo di confusione si scatenò il panico. La folla aveva cominciato a disperdersi, qualcuno si era già messo in cammino, altri salivano in carrozza alla volta del loro destino. In poche ore il regno si svuotò. Anche il re si era rifugiato lontano in attesa che sul palazzo tornasse il sereno. Fu allora che Ortodonzio, rimasto solo, prese un piede di porco e andò a svaligiare tutti gli appartamenti dei vicini, mentre suo cugino, Fonzio, che era ancora travestito da indovino, faceva il palo. E poi Ortodonzio e Fonzio vissero ricchi, felici e contenti per sempre. Che bambini, qual è la morale della favola? Se vi prodigate per la serenità degli altri, finirete in balia di terribili sciagure. Se invece organizzate una piccola truffa con un cugino compiacente e approfittate dell'assenza dei vicini per appropriarvi dei loro beni, vivrete per sempre felici e contenti. Questa è la morale della favola, cari bambini. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini. E anche dei truffatori. Non esistono truffe, esistono solo sistemi per vivere nel migliore dei modi possibili. La truffa è una costruzione giuridica, la vita è una realtà immanente. Va bene, con questa filosofia spiccia e criminale del clown Neronello noi ci fermiamo anche oggi, caro amico. Detto che Sfida Luchetti dice che non è stato ancora nominato l'orso che ha attaccato i due padre e figlio di due giorni fa. Insomma, se l'è cavata così, con una non risposta, tipico di chi non sa e millanta e si aggrappa. Avrà sbuffato, però Miriam avrà sbuffato, esatto, mentre rispondeva, e si sarà voltato i girati i capelli dall'altra parte. Che il sistema, la tecnica Lucchetti. E vabbè. Ci ritroviamo domani, cari ascoltatori. Ciao. Nessuno, nessuno.